Cristo è la salvezza, dice il ritornello dell'inno composto per l'anno centenario di Pio X da Monsignor Marco Frisina. Il nostro percorso settimanale sul santo di tutti, Pio X, il nostro Beppi, come titola questa rubrica, che poi ritrovate anche in podcast, ritorna ad approfondire alcuni aspetti delle riforme volute da Papa Pio X più o meno un secolo fa. Riforme che, come ci spiegava la settimana scorsa il professor Giampaolo Romanato dell'Università di Padova, avevano toccato l'apparato di governo e anche il codice di diritto canonico. Ma c'è un'altra riforma molto importante che avvicina, guardate un po' la provvidenza, avvicina proprio l'opera 100 anni fa di Papa Pio X a quella di questi giorni di Papa Francesco. Il terzo motivo, se vogliamo, di interesse, di attualità della figura di Pio X è legato alla sua, come posso dirla, alla sua scarsa fiducia, ecco, nell'apparato di governo della centrale della Chiesa. Tutti i pontefici del Novecento, fino all'attuale pontefice, sappiamo che hanno avuto rapporti non sempre armoniosi, qualche volta difficili con la curia romana. Curia che apparato di governo, quindi, che tende a sfuggire al controllo del Papa e sul quale il pontefice ha difficoltà, ecco, ad esercitare il suo controllo. Questo problema che troveremo in Benedetto XV, troveremo in Pio XI, troveremo in Pio XII, che per quasi tutto il suo pontificato rifiutò di nominare un segretario di Stato, lo troveremo in Paolo VI. L'abbiamo trovato in Benedetto XVI in Ratzinger e mi sembra sia un problema anche dell'attuale pontificato di Papa Francesco. Questo problema si pose per la prima volta chiaramente all'epoca di Pio X. E Pio X risolse la questione sottraendo molte competenze alla curia romana e avvocandole a se stesso e gestendole attraverso la sua segreteria privata, quella che è diventata nota alla storiografia come la segreteriola, cioè l'apparato dei suoi 4-5 segretari o collaboratori diretti sui quali il Papa esercitava un controllo costante, quotidiano e diretto. E il suo magistero pontificio, dentro questa scelta di fondo, si esercitò largamente attraverso lo scambio epistolare con i suoi corrispondenti. Nessun Papa del Novecento ha lasciato una mole di lettere tanto ampia come quelle di Pio X. Oggigiorno scriveva decine di lettere a qualunque tipo di interlocutore, a tutti coloro che si rivolgevano a lui ponendo dei problemi, a tutti rispondeva, dava risposte, e rispondeva a specifici quesiti e poi a volte lui stesso, chiudendo le lettere dentro la busta e chiudendo la busta e scrivendo lui stesso l'indirizzo sulla busta, dava queste lettere ai segretari perché le impostassero. E quindi questo tipo, ecco, di rapporto con i fedeli, questo tipo di magistero scavalcava anch'esso gli organismi di governo della Curia Romana. Tutto questo creò dei problemi, crea qualche difficoltà anche agli storici oggi nel tentativo di interpretare il suo pontificato, ma comunque rappresenta un motivo di interesse, diciamo, di questa figura, perché, come ho detto prima, per la prima volta forse nel pontificato moderno fece emergere il contrasto fra Papa e Curia e la difficoltà del Papa e dei pontefici di esercitare il loro magistero dovendo venire a patti comunque con gli organi di governo centrali della Chiesa. Ringraziamo il professor Giampaolo Romanato dell'Università di Padova per questo ulteriore approfondimento sulle riforme di Pio X. Vedete, una figura per certi versi attuale. Papa Francesco sta attuando scelte simili o sulla stessa linea di tendenza. Certo, il mondo è completamente diverso e evidentemente serve un adattamento alla situazione. Anche la visita dell'altro giorno ad Assisi certamente rientra in questo in questo percorso voluto dall'attuale Santo Padre. Di Pio X torneremo a parlare anche nei prossimi giorni. Si avvicina il grande appuntamento di Treviso 23 di ottobre e di Venezia 24 di ottobre, il convegno proprio sulle riforme nel cattolicesimo volute da Pio X, evento di cui parleremo, che avremo anche in diretta streaming in forma integrale il mercoledì 23 da Cadei Carraresi a Treviso e il giovedì 24 dal Marcianum presso la Basilica della Salute a Venezia.